Sudafrica 2010, i mondiali in diretta. Buongiorno da Alessio Maurizi. Si chiudono oggi con Paraguay e Giappone e la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo gli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Ieri sera in campo Brasile e Cile. Sentiamo com'è andata a finire. Il 3-0 con cui il Brasile si è sbarazzato del Cile è un messaggio forte a tutti gli avversari, veri o presunti, sulla strada della finale di Johannesburg. I verde-oro viaggiano già a pieno regime contro i cileni, che pure nella prima fase avevano ben impressionato e che in avvio di partita erano sembrati in grado di dare qualche fastidio. È bastata un'accelerazione intorno alla mezz'ora del primo tempo per timbrare il passaporto verso i quarti. Juan di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi Luis Fabiano in contropiede e nella ripresa, 45 minuti di accademia e controllo della partita, il sigillo di Robinho. Insomma, spettacolo e concretezza. Un brutto segnale per chi spera di potersi mettere di traverso sulla strada di Dunga, che dopo anni di polemiche sembra finalmente aver messo tutti d'accordo e che aspetta ancora il miglior Kakà, anche ieri sera il meno brillante dei suoi. Ora tocca all'Olanda, riedizione di sfide storiche già viste nel 74, 94 e 2002. Bilancio a favore del Brasile. Agli Orange il colpo è riuscito solo sotto la regia di un certo Cruyff. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. E nel pomeriggio vittoria da pronostico anche per l'Olanda sulla Slovacchia. Prendi una squadra solida, aggiungici due grandi giocatori da metà campo in su ed ecco i quarti di finale di un mondiale. Non c'è miracolo, non c'è magia. Il calcio non è una materia così complicata come qualche volta la vogliono far passare. Il confronto è diretto, brutale e impietoso. Stessa avversaria che ci ha dominati e spediti all'inferno, risultato opposto. L'ago della bilancia slovacco dice molto semplicemente che l'Olanda è più forte dell'Italia ed è l'unica risposta che il nostro lato masochista domandava. Più forte perché in questo momento più pronta atleticamente, più compatta, più leggera di testa. Più forte soprattutto perché, senza girarci troppo intorno, giocatori come Robben, Snyder e Van Persie in questo momento ce li sogniamo di notte. Quelle notti mondiali nelle quali serve almeno un colpo di genio e che l'Olanda vivrà ancora almeno per una volta. Carlo Genta, GR24, Il Sole 24 Ore. Continuano intanto le polemiche dopo le sviste arbitrali nelle partite dei giorni scorsi. La FIFA però non intende affrontare apertamente la questione. L'inverno sudafricano appanna la vista di alcuni dei protagonisti di questo mondiale. Prima i clamorosi abbagli degli arbitri che non convalidano gol regolari come quello di Lampard contro la Germania e non ne annullano di irregolari come il primo di Tevez nella sfida di domenica con il Messico. Poi cala la vista anche della FIFA, che non vede alcuna questione arbitrale. Nella conferenza stampa di ieri ha rifiutato di aprire qualsiasi discussione sugli errori dei direttori di gara. Il portavoce Nicolas Mengo ha ribadito il no della federazione alla moviola in campo e ha condannato l'utilizzo delle immagini dei replay sui maxi schermi negli stadi. Non avrebbero dovuto mostrarle, ha detto Mengo. I agree if we have an absolute accurate. In serata però è sceso in campo il presidente Blatter, che in un'intervista alla CNN ha detto di non essere contrario all'utilizzo delle tecnologie, ma solo a patto di trovarne di affidabili, e al momento, secondo lui, non esistono. Flavio Bini, GR24, Il Sole 24 Ore. Errori arbitrali che, come sappiamo, hanno fortemente penalizzato l'Inghilterra di Fabio Capello agli ottavi contro la Germania. Il tecnico ha risposto nuovamente ieri alle domande dei giornalisti. Fabio, hello. Do you have an England future? I spoke this morning. With Sir Dave Richards. Ai cronisti, l'ex allenatore di Milan e Juve ha dunque rivelato che il presidente della federazione inglese Sir Richards si è riservato 15 giorni per decidere sul futuro della panchina inglese. But you want to stay on as England manager. Absolutely. Capello ha ribadito dunque che non si dimetterà e che la sua volontà è quella di rimanere alla guida della nazionale inglese. E chiudiamo con la notizia che arriva dalla Francia. Dopo il fallimento mondiale della spedizione guidata da Domenech, si è dimesso ieri il presidente della federazione francese. Jean-Pierre Escalette ha dichiarato di volersi assumere la responsabilità diretta per il disastro sudafricano. La squadra di Domenech, lo ricordiamo, è uscita con soltanto un punto all'attivo e con lo spogliatoio spaccato dopo che l'allenatore aveva deciso di cacciare dal ritiro Nicolas Anelka. Ed è tutto per questa edizione di GR Sport. Buona giornata.